Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. Il grande reset. Un programma con l'occhi da matto. Di Simone Pizzi. Sì. Ah, belli de casa, bentornati a questo nuovo appuntamento con il grande reset qui su Runtime Radio, la web radio geek. Bentornati ragazzi. Allora, alcune indicazioni così prima di partire in tromba con questo che è il nuovo episodio. Vi dico semplicemente, intanto vi annuncio che la trasmissione di ogni mattina è quella con me e Michela, ovviamente Disordinati Informati, alle 8:30 sarà spostata ancora una volta a domenica mattina per ragioni proprio tecniche e organizzative. Poi ne parleremo un giorno proprio nello specifico di un episodio proprio ad hoc, perché voi considerate che il Grande Reset ha già tutta una serie di episodi già, diciamo, preordinati, insomma preparati, preorganizzati, che sono in fase di lavorazione. Detto questo, invece, poi durante questo weekend, ragazzi, vi lasceremo un po' soli. Non ci saranno grosse trasmissioni, non c'è stato Quando Eravamo Futuro ieri, non ci sarà Runtime by Night questa sera e non ci sarà niente nel weekend, se non ovviamente domenica, come al solito, dalle 8:30 in poi il meglio, scusate, ho sbagliato, dalle 10 in poi il meglio di Runtime Radio di tutta la settimana, sia tutti i podcast che sono usciti nel feed di Runtime Radio o nei vari feed di Runtime Radio e ovviamente le live che sono state trasmesse durante l'arco della settimana. Riguardo a quello che sta succedendo Runtime Radio in rapporto con Spreaker, anche qui faremo un episodio specifico, ma non ora, bisogna un attimo far passare un po' di tempo anche per avere il tempo di metabolizzare certe cose, di riuscire ad assimilarle meglio dentro di noi e avere anche una posizione un po' più asciutta, diciamo, rispetto a quello che è magari l'incazzatura che uno ci può avere lì per lì, dovute insomma a tutta una serie di situazioni che stanno crescendo e stanno cambiando. Ma di questi argomenti ne abbiamo già parlato diverse volte, anche del tradimento un po' spirituale, no? Che la piattaforma sta praticamente applicando verso quelle persone o quelle realtà che sono lì dentro da tantissimo tempo ed erano entrate per una ragione, ragione che non esiste più. Detto questo, invece, intanto vi dico, oggi parliamo di intelligenza artificiale, ma la prossima settimana, in collaborazione con Francesco, parleremo di complottismo. D'altronde la trasmissione che si chiama Il Grande Reset, come non parlare di complottismo? E cercheremo insomma di affrontare in maniera prima da osservatori e poi magari cercare anche di analizzare quello che è un po' il mondo del complottismo, quindi i gruppi, i ragionamenti, i concetti, i minestroni e tutto quello che poi porta una persona ad avere bisogno di credere a qualcosa di alternativo rispetto ovviamente a quella che è la realtà, e non soltanto, anche cercare poi di capire perché questa fede arriva a tal punto da diciamo accettare anche, che ne so, situazioni o condizioni che poi alla fine è chiaro che sono dei minestroni. Ma adesso musica e poi si parte. Bene, io mi rendo conto che non è consueto passare dei brani totalmente strumentali per radio, però Alan Parsons Project è sempre qualcosa che merita di essere ascoltato e ce lo siamo appunto sparato con iRobot. Allora, di che parliamo in questo episodio? Parliamo di intelligenza artificiale. E è un argomento che in Runtime Radio viene molto trattato in diverse situazioni, in diversi contesti, ma con delle opinioni e delle anime completamente diverse spesso fra loro, proprio perché Runtime alla fine è un collettivo di persone che esprime considerazioni strettamente individuali, cioè strettamente personali. E questo è la forza di un progetto come il nostro, da un certo punto di vista, perché comunque in questa specifica occasione si possono realizzare progetti come questo episodio qui. Perché? Perché ovviamente l'intelligenza artificiale è un argomento particolare, delicato, anche molto tecnico volendo, e non tutte le persone che ascoltano Runtime Radio sono abbastanza competenti o ferrate per riuscire a comprendere di che cosa si sta parlando, o perlomeno di sviluppare una propria idea, anche perché bisognerebbe ascoltare X numero di trasmissioni per poter sviluppare un'idea. E quindi la mia idea in questo specifico caso era quello di raggruppare il meglio di quelli che sono i pensatori, gli speaker di Runtime Radio relativamente all'intelligenza artificiale, e racchiuderli in un unico contesto e fingere di fare una sorta di intervista distribuita a tutte queste personalità per cercare di capire il loro punto di vista, e cercare anche io di esprimere nel limite del possibile il mio punto di vista, anche se vorrei cercare di non indirizzare poi magari il pensiero, però è ovvio che anch'io ho dei miei pensieri riguardo a questo. Però il primo intervento, cioè alla persona alla quale abbiamo chiesto di dirci che cos'è l'intelligenza artificiale, o se esiste realmente l'intelligenza artificiale, purtroppo il contributo non è mai arrivato, perché nonostante le 2 settimane di tempo, queste sono state settimane, diciamo, di grosso impegno. Infatti io con Carlo ho interagito veramente poco, perché era sommerso di lavoro. Quindi perdoniamo Carlo Sant'Agostino, che non ci ha mandato ovviamente il suo contributo. Avrebbe potuto partecipare in diretta, ma in realtà ci avremmo dovuto organizzarci prima, perché purtroppo poi quando si prepara un setup per fare ovviamente una trasmissione è sempre un po' complicato. Allora cerco di dare io una spiegazione, poi qualcuno mi bestemmierà come c'è stata la storia dell'oscilloscopio, di cui poi io non ho mai parlato, però insomma oramai si era creata questa leggenda. Allora, per intelligenza artificiale si intende praticamente tutti quei software che sono abbondantemente e accuratamente addestrati in una determinata funzione, con tutta una serie di algoritmi che gli permettono di elaborare, diciamo, delle risposte alle domande che gli vengono fatte. Ad esempio GPT praticamente riesce ad elaborare un linguaggio più che comprensibile su una domanda, dando delle risposte. Questo però non significa che quelle risposte siano risposte consapevoli, sono comunque il frutto di tutta una serie di informazioni, di tutta una elaborazione, di tutto un apprendimento che il software fa, che viene comunque sintetizzato, analizzato e viene poi portato in un output di una risposta che può avere la sensazione, può dare la sensazione di essere non solo una risposta coerente e precisa all'informazione, ma soprattutto che possa sembrare un'intelligenza, una risposta consapevole. Questo tipo di applicazione viene utilizzata su tanti fronti, ad esempio la musica. Ci sono dei software sperimentali ai quali tu dai delle indicazioni e lui ti crea la musica. Con la grafica abbiamo visto, insomma, dall'I che praticamente riesce a crearti un'immagine, una composizione fotografica su una descrizione molto anche estesa che tu fai al software, oppure ChatGPT, appunto, che insomma riesce a darti delle risposte su delle domande ben precise che tu fai. Ovviamente si tratta di, appunto, di un software costruito, elaborato, molto sofisticato, anche se poi abbiamo capito che certe dinamiche poi sfuggono anche un po' alla comprensione degli sviluppatori. Però la grande confusione che si fa in merito a questo, e che secondo me è un po' una confusione indotta nel chiamare ovviamente questo tipo di software intelligenze artificiali, è di stimolare quella predisposizione strettamente umana nell'antropomorfizzare qualsiasi cosa con la quale noi abbiamo a che fare, no? Quindi noi pensiamo che sia quello che venivano definiti su Star Trek dei circuiti intelligenti, e e quindi rispondiamo e abbiamo un rapporto, tendiamo a costruire un rapporto come se fosse un rapporto individuale con un individuo, appunto. Quindi intelligenza artificiale ci dà la sensazione che ci sia una consapevolezza. In realtà non esiste nessuna consapevolezza reale, non si evince in nessun modo dal punto di vista proprio strettamente empirico che ci sia la possibilità che si possa costruire una consapevolezza elettronica, digitale, virtuale, come la vogliamo chiamare. Quindi diciamo che per ora il processo che possa portare una macchina ad avere una consapevolezza è ben lontano da quello che noi stiamo vivendo in questo momento. Stiamo parlando di applicazioni che riescono, con tutte le informazioni, con tutta l'elaborazione, con tutta l'esperienza che acquisiscono da un certo punto di vista, esperienza è un termine sbagliato, le informazioni che impara ovviamente da tutti quelli che sono determinati contesti, riesce a dare un supporto in certi casi, o addirittura proprio una ad a bypassare determinati processi che magari possono essere utili. Quindi, fermo restando questo, insomma, diciamo, sperando che abbia un senso, diciamo, quello che ho detto, ma questo è quello che ho imparato io, che ho appreso io ovviamente da quello che è l'intelligenza artificiale. La prima domanda che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatta ad Alex e poi a Roberto, quindi li sentiremo di seguito, proprio perché secondo me sono come figure molto similari da questo punto di vista, uno come sviluppatore, uno come osservatore positivo, diciamo, di questo tipo di ambiente. E la domanda che è stata fatta è: dato che in questo periodo si sta facendo un gran parlare di intelligenza artificiale come un qualcosa alla quale diciamo delegare parte, insomma, delle decisioni o delle responsabilità che magari dovrebbe, insomma, assumersi il professionista, voi come cosa pensate di questo, appunto, di questa tendenza, ecco, diciamo, chiamiamola così, e sentiamo che cosa ci rispondono, partendo da Alex Raccuglia, ovviamente editor, regista e sviluppatore, autore di Tecnopills e di altri programmi, e Roberto Marin, architetto e autore di Snap, Architettura Imperfetta, partendo da Alex. Salve a tutti, innanzitutto scusate per la qualità dell'audio che probabilmente non è eccessa come quella delle persone che mi hanno preceduto e mi seguiranno, ma purtroppo sono obbligato a registrare in condizioni non particolarmente perfette. Allora mi presento, io sono Alex Raccuglia, mi occupo di produzione e di post-produzione video. Nella fattispecie il mio core business è incentrato sulla realizzazione di video promozionali, spot pubblicitari e comunicazione finalizzata al marketing, sempre più spesso business to business, ma non disdegno anche il business to consumer. La domanda è una domanda molto intelligente, molto bella, molto impegnativa. Probabilmente non riuscirò a sviscerare tutti i concetti che vorrei, ma cercherò di essere breve e conciso. Da professionista vedo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambiti creativi diventa sempre più stringente e sempre più pressante dal punto di vista della produzione di contenuti grafici. Penso a DALL-E, Stable Diffusion e a tutti gli strumenti che vengono utilizzati ultimamente per generare immagini a partire dal testo, ma non solo, anche per il copy. Io stesso ho utilizzato un'intelligenza artificiale, cioè ChatGPT, per elaborare il copy di alcune newsletter che ho inviato per un lavoro minore, ma comunque sempre per lavoro. Sono soddisfatto dei risultati che ho ottenuto, non nell'ottica di utilizzare i risultati che sono stati creati dalle intelligenze artificiali così come sono, però se pensiamo a questi strumenti come una sorta di calcio d'inizio che consente di veicolare meglio, agevolare e sostenere il lavoro del professionista, allora secondo me invece si tratta di strutture che possono avere una certa utilità. Oggi, e sto parlando dell'inizio del 2023, lasciate da sole queste intelligenze artificiali, che ovviamente non sono intelligenti ma sono fortemente artificiali, producono delle cose che possono avere una forma molto bella, ma che a volte, insomma, i cui contenuti a volte non sono realistici, non sono reali, non sono veritieri. veri. Per cui il compito di chi sfrutta questi strumenti è quello di controllare, vagliare e sfruttare i risultati delle intelligenze artificiali come con un buon punto di partenza, come quello che potrebbe essere creato e sviluppato da uno stagista, da una persona di molto meno esperienza. C'è da dire che l'incremento delle potenzialità qualitative e quantitative di questi strumenti è sicuramente sensibile. Il 2022 è stato l'anno dell'intelligenza artificiale. Probabilmente, se non ci fosse stata la guerra, sulla copertina di Times ci sarebbe stata un'immagine generata con Stable Diffusion o da lì invece che Zelensky. Questo fa pensare che nel corso dei prossimi anni sempre più spesso faremo utilizzo di questi strumenti in maniera sempre più pervasiva, sempre più invasiva, nell'ottica di creare contenuti sempre più perfetti, tra virgolette, per essere fruiti da altri esseri umani, il cui span di attenzione comunque è sempre più ristretto, per cui anche lì passeremo un sacco di tempo, di energie, di risorse. Considerate che ChatGPT costa al giorno OpenAI qualcosa come 3 milioni di dollari, infatti è finanziata in parte da Microsoft. Insomma, ci saranno sempre più energie, se proprio energia vera e propria dedicata alla creazione di contenuti, e sempre meno tempo e attenzione per i contenuti stessi. Quello che può fare un professionista in vari ambiti, io mi occupo di quello di creazione audiovisiva e anche a volte di copy, ma immagino anche chi fa musica, a chi fa altro, modellazione 3D, allora sì, forse è il caso di essere sempre più consci del fatto che bisogna vigilare e che bisogna controllare. Nel senso, entreresti mai in una casa progettata da intelligenza artificiale? Forse sì, ma basta che ci sia qualcuno titolato a controllare che la casa resti in piedi e non crolli sotto il suo peso. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Runtime Radio. Provo a rispondere alla domanda che il patron Simone Pizzi mi ha posto riguardo all'intelligenza artificiale. La prima questione, ma penso che sia stata già abbastanza dibattuta, è che tutto sommato adesso non si può parlare effettivamente di intelligenza artificiale, ma siamo ancora all'inizio di questa esperienza dell'informatica. Ad esempio ChatGPT è un modello semantico, non è un'intelligenza artificiale, e pensare a introdurre l'intelligenza artificiale così come è al giorno d'oggi all'interno della professione dell'architetto può diventare interessante. In realtà la questione è già stata affrontata con i processi di progettazione generativa, che utilizza appunto algoritmi che potremmo definire qualcosa che si avvicina all'intelligenza artificiale perché non dipende dall'umano, anche se è scritto dall'umano, e praticamente il progettista, con una serie di iterazioni, di richieste e di vincoli che vengono posti al computer, il computer tramite questo algoritmo genera delle soluzioni architettoniche che poi vanno vagliate dal progettista o da un insieme di progettisti. Immagino che abbiate capito bene che, secondo il mio punto di vista, l'intelligenza artificiale o qualcosa che si avvicina a questa definizione può tornare utile all'interno della progettazione perché solleva un po' la testa del progettista a riguardo di alcuni aspetti della progettazione. Una su tutti, per esempio, potrebbe essere la legislazione. Se noi avessimo qualcosa, un tool che ci permette di avere delle soluzioni che rispecchiano la normativa ma sono tutte diverse, e quindi c'è più libertà da parte dell'architetto di pensare a qualcosa di diverso, secondo me è un punto di vista interessante che permette appunto al progettista di avere un ulteriore tool davanti a sé per riuscire a esprimere la propria capacità intellettiva. In questo momento penso che sia impossibile dal punto di vista professionale pensare che l'intelligenza artificiale possa essere sostituita a quello che può essere l'intuito, la fantasia, l'estro, soprattutto nel campo dell'architettura, perché è in effetti un mondo molto vario, che è una via di mezzo tra l'arte e il tecnico. Quindi penso che l'intelligenza artificiale possa essere probabilmente applicata molto bene alla parte tecnica, ma forse deve ancora essere accompagnata da qui a qualche anno, penso molto di più di quello che stiamo pensando in questo momento, riguardo all'estro, perché ritornando all'esempio di ChatGPT, vediamo ad esempio che di estro ce n'è ben poco, perché se notate, nel momento in cui parlate, tra virgolette, con ChatGPT, vedete che usa tantissimo tuttavia in quasi tutte le frasi, e a me questa cosa qua dà abbastanza fastidio, e penso che se iniziate a guardare da questo punto di vista le risposte che vengono fornite da questo tool, diventano un po' ripetitive. D'altra parte però c'è una considerazione da fare, che l'intelligenza artificiale deriva probabilmente da algoritmi E in ogni caso, quello che secondo me è da tenere ben sott'occhio è la questione dei bias cognitivi che abbiamo tutti quanti noi. Sono essenzialmente dei preconcetti di cui magari non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma magari inseriamo all'interno degli algoritmi e di conseguenza i risultati dipendono da questi bias cognitivi che non conosciamo, ma che portano magari a soluzioni, diciamo, non pulite, tra virgolette, ovvero soluzioni che possono portare all'esasperazione il bias cognitivo che magari in un contesto ha praticamente nessun valore e in altri contesti invece ha un valore molto alto. Ad esempio, è stato chiesto a Dalí di creare delle immagini che riguardassero l'architettura africana e vediamo che vengono proposte essenzialmente delle capanne con paglia. E secondo me questo è uno dei tanti bias cognitivi che possono portare a una valutazione errata da parte dell'intelligenza artificiale o presunta tale. E quindi, secondo il mio punto di vista, all'interno della professione, l'intelligenza artificiale rimane sì un tool interessante che può toglierci del lavoro ripetitivo o del lavoro, diciamo, non adatto agli umani, perché appunto cose ripetitive per gli umani non sono proprio il massimo dal punto di vista del cervello, perché ne sfrutta una limitata capacità del cervello. Invece soluzioni artistiche pensate e ingegnerizzate di quello che viene buttato fuori da un'esperienza come ChatGPT potrebbe essere interessante. Questa situazione potrebbe evolversi ancora in modo diverso con le novità che dovrebbero essere presentate da qui a qualche anno da parte di Autodesk, che essenzialmente sta introducendo una sorta di intelligenza artificiale, ma molto molto molto tra virgolette, perché non si tratta di questo, ma si può riallacciare facilmente al discorso, che permette appunto di rendere la progettazione più un discorso tra macchina e uomo piuttosto che unidirezionale da parte dell'uomo. Anche questo potrebbe essere interessante, dobbiamo vederne gli sviluppi, e spero che l'idea di cui avevamo affrontato qualche anno fa con Simone Pizzi, che questo tipo di progettazione, chiamiamola generativa, possa dare dei risultati molto omologati. Secondo me non andrà a finire così, perché sono certo che, conoscendo l'ego degli architetti, non saranno tutte soluzioni preconfezionate e tutte quante avranno sicuramente l'impronta dell'architetto, ma in altri casi ci sarà sicuramente preponderante il contorno e il contesto in cui questa soluzione architettonica generativa viene inserita. Spero di avervi dato spunti per la riflessione e non mi rimane che salutare tutti quanti. Alla prossima! Allora, due punti di vista simili ma diversi, cioè nel senso comunque in contesti che sono diversi. Tendo, diciamo, ad avere una posizione abbastanza compatibile con quella di Alex, perché se io penso all'intelligenza artificiale come uno strumento che possa aiutare un creativo, cioè quindi un scendo di livello, cioè nel senso non vado nell'ambito professionale come Alex, ma ad esempio con Runtime Radio, utilizzando Canva, facendo tutte le grafiche relative ovviamente ai nostri Instagram, ai siti, alle cose e via dicendo, utilizzare l'app di intelligenza artificiale, perché a volte è difficile trovare magari il contenuto che tu vorresti trovare per rappresentare quella cover di quel determinato episodio, e quindi vai sull'applicazione Canva dedicata all'intelligenza artificiale, gli dici: guarda, mi serve l'immagine di un microfono radiofonico in mezzo alla neve e in una notte di luna piena. Cioè, la cosa bella è ricevere abbastanza coerentemente tutta una serie di soluzioni che comunque ti permettono di realizzare quello che volevi fare, quantomeno, insomma, anche se c'è sempre un po' questo aspetto strano, onirico, che ci hanno queste immagini prodotte dall'intelligenza artificiale, no? Anche un po' inquietanti a volte, però insomma diciamo che è funzionale. Sono abbastanza d'accordo anche con Roberto quando dice che comunque dal punto di vista professionale l'intelligenza artificiale può sostenere la libertà di creazione del professionista, perché magari si occupa di tutte quelle questioni di cui l'architetto deve tenere conto e che però ovviamente gli impediscono di agire più velocemente nei confronti di altre situazioni, altri contesti. Ecco, lì sono d'accordo da un certo punto di vista, ma secondo me già i software lo fanno. Cioè, per esempio, io non è una cosa che mi compete, non lo so, però un CAD, cioè permette di progettare più velocemente di quanto una persona poteva fare utilizzando il tecnografo, penso sia così, no? Il tavolo da disegno, via dicendo, o comunque ci sono già probabilmente delle soluzioni che aiutano, che velocizzano il lasciare alla. E qui faccio l'esempio di un notaio che utilizza l'intelligenza artificiale per bypassare tutta una serie di meccanismi e creare degli atti aiutato e sostenuto dall'intelligenza artificiale. Lì io comincio ad avere delle perplessità in generale. Uno, perché di chi è la responsabilità di un fallimento? E due, se tu non ti rendi conto perché hai, come posso dire, demandato praticamente all'intelligenza artificiale di fare un certo tipo di lavoro, probabilmente potrebbe succedere questo, cioè, è che magari tu fai tutta una serie di cose che sono sbagliate perché l'algoritmo ha quel tipo di errore e non ha quel tipo di informazione. Detto questo, invece è interessante quello che dice sempre Roberto sul fatto dei preconcetti che spesso e volentieri possono uscire fuori dalle richieste che tu fai ovviamente all'intelligenza artificiale, tipo architettura africana, case de paglia, insomma, no? Quindi capanne de paglia del villaggio. Ma lì secondo me c'è un po' un problema anche di conoscenza, no? Di quantità di informazioni che l'intelligenza artificiale può avere, e quindi non, fino adesso per ora non sappiamo con certezza quante informazioni ha per avere una risposta coerente nei confronti della nostra professione, di quello che può darci alla nostra professione, e quindi anche demandare determinate responsabilità. E io su questa cosa sono un po' perplesso, perché in realtà ma questa è una perplessità tutta chiaramente mia, non è penso di avere più ragione o meno ragione di Roberto o di Alex. E poi c'è anche questa visione un po' americana dello stereotipo, cioè nel senso che è legata molto, perché ovviamente gli americani sviluppano queste cose e quindi ovviamente queste cose rispondono a secondo di quello che è il loro punto di vista, no? Cioè l'immagine dell'Italia in un film è la Torre di Pisa col mandolino. Cioè, perché fa Italia, insomma, non so se mi sono spiegato. Comunque. Forget the whale, questo è My Little Robot, No, anzi, The Little Robot, scusate. E va bene ragazzi, andiamo avanti. Intanto saluto Roberto Marin, che è in chat con il quale stiamo interagendo. Io l'ho già detto più di una volta e ho cercato anche di riportare un po' qua quella che è la mia opinione, che è un'opinione molto vaga, cioè molto vacua anche, e che comunque l'aspetto dell'utilizzo professionale dell'intelligenza artificiale secondo me è una zona ancora grigia, ma non abbiamo neanche elementi secondo me per capire dove può esserci l'inghippo, dove può esserci l'errore, dove c'è il bug, ecco, diciamo su questo. Però io quello che ci tenevo è che in questo episodio tutti esprimessero le loro considerazioni, dato che sono tutte voci sparse nei propri podcast, giustamente. Tra l'altro è appena uscito Snap stamattina, quindi andatevelo ad ascoltare, dove probabilmente c'è anche, si continua magari ad affrontare la tematica in qualche maniera, e tutte le vostre voci, insomma, cercare di condensarle all'interno di un episodio che potesse essere ascoltato da tutti e avere un sunto di quello che è the best of runtime intelligenza, diciamo così. E andiamo da Davide, perché a Davide, per esempio, Davide è una persona che ha una conoscenza e una competenza anche informatica importante, ma magari non ha un rapporto così diretto con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi la domanda che gli ho fatto è: cosa ne pensa lui, da questa sua condizione, da questa sua posizione, di questa sovrabbondanza dell'utilizzo di intelligenza artificiale anche nella vita di tutti i giorni delle persone? Ciao a tutti, eccomi qua per rispondere alla domanda di Simone relativo all'uso, diciamo, pratico che si sta facendo dell'intelligenza artificiale, diciamo, nel mondo tech. Io personalmente sto utilizzando questa tecnologia in maniera particolarmente accentuata. Oggi credo che gran parte delle applicazioni nelle quali viene impiegata è principalmente in programmi che si definiscono di intelligenza artificiale, mentre sarebbe più corretto parlare di deep learning. L'intelligenza artificiale, come ce la stanno un po' propinando, anche forse in maniera propagandistica, rivolta a qualsiasi tipo di mercato e a qualsiasi tipo di applicazione, in realtà ci sono varie tipologie che chiamiamo l'intelligenza artificiale. Oggi stiamo vivendo dei momenti in cui ci sono svariate applicazioni che ci fanno un po' stupire e in qualche modo ci fanno anche un po' spaventare. Quindi quando cominciamo a vedere che ci sono delle chat dove dall'altra parte risponde un programma basato su intelligenza artificiale o comunque mezzi di quel genere, e quando cominciamo ad avere questa impressione che dall'altra parte ci sembra di parlare davvero con una persona che ci stia dando delle risposte, cominciamo un pochino a preoccuparci, perché sembra facile pensare che da un momento all'altro noi potremmo essere sostituiti dalle macchine che prendono delle decisioni e rispondono al posto nostro. Credo che, come tutti gli amici che saranno qui a rispondere a queste domande, saremo, credo, tutti d'accordo sul fatto di cominciare un pochino a preoccuparsi quando qualcuno deciderà di utilizzare queste tecnologie per prendere delle decisioni. Il sistema non è un sistema che può prendere decisioni come le possiamo prendere noi, se non semplicemente a base statistica o in base ai dati che ti sono stati dati in pasto per poter dare delle risposte. Per cui se è un'intelligenza artificiale che ha un database pieno di ricette di cucina, alla nostra domanda proponimi una ricetta facile per i 4 ingredienti che ho nel frigorifero, allora lui ti darà una risposta e ti farà delle proposte che tu sei libero di accettare o meno. Il problema è quando questi dati che vengono inseriti sono, seppur tanti, non saranno mai comunque completi, e su questo qualcuno comincerà a dire: è talmente bella, è talmente affidabile che io utilizzerò questa tecnologia per prendere determinate decisioni, o addirittura le prende automaticamente il sistema e mi scarta subito degli elementi che non fanno parte del set che mi interessano. Quindi sto facendo dei colloqui per cercare una persona adatta al mio team, ho determinati tipi di richieste e il mio sistema automatico, base alle risposte che danno alcune persone, stabilisce già da subito se queste persone sono idonee o no a proseguire gli step successivi del colloquio. Ecco, qui si cominciano a prendere delle decisioni, e finché sono decisioni di questo genere possono avere un impatto più o meno grave. Quando le decisioni cominceranno a essere più pesanti, allora sì, c'è un po' da spaventarsi. Dal punto di vista tecnologico è evidente che questa tecnologia ha molti aspetti interessanti, positivi e curiosi. Io, come ripeto, utilizzo spesso su determinati campi queste tecnologie che sono poi più sul deep learning che l'intelligenza artificiale, perché in questo caso sono davvero molto efficienti e creano comunque tantissimo stupore, tanto quanto lo creano le chat, piuttosto che quei programmi di disegno automatici che in base a 4 parole che noi scriviamo compone un disegno abbastanza credibile su quanto noi l'abbiamo descritto. Oppure quei programmi, sempre che manualmente tu fai dei disegni molto molto semplici, e loro te li amplificano sfruttando i meccanismi appunto di deep learning. Nel campo audio e nel campo video questa tecnologia è oggi miracolosa, e grazie a questa tecnologia si possono diminuire i tempi di lavoro su tantissime cose e si può migliorare parecchio la qualità del risultato. Addirittura spesso, è successo a me personalmente, è possibile recuperare del materiale che invece diversamente sarebbe stato perso, magari una registrazione audio con un fortissimo rumore di fondo, piuttosto che del video registrato con un dispositivo non idoneo allo scopo, quindi con risoluzioni molto basse, eccetera. Prima si potevano fare un po' di miracoli, ma ci voleva una grande abilità e comunque il risultato era sempre piuttosto modesto. Oggi ci sono dei meccanismi talmente evoluti che rasentano quella che io dico la magia nera. Io spesso sono incredulo a volte davanti a certi tipi di risultati su alcuni programmi nel campo audio, dove praticamente si ottengono dei risultati sbalorditivi, quasi impossibili da immaginare. E questo grazie appunto a questo tipo di applicazioni, a questo tipo di struttura. Ecco, io vedo che se utilizziamo questi strumenti per migliorare i nostri flussi lavorativi, per supporto, secondo me la strada è piena di cose positive. Quando invece questa tecnologia si comincerà ad utilizzare per cominciare a prendere delle decisioni al posto nostro, su questo io invece credo che finirà molto male. È difficile stabilire come, cosa, ma qualsiasi libro di storia, qualsiasi film, qualsiasi racconto, qualsiasi immaginazione ci ha sempre portato poi alla rovina e al dominio del mondo digitale verso il dominio dell'uomo, che in parte lo è già adesso, ma adesso siamo ancora noi col coltello dalla parte del manico, ma piano piano stiamo dando questo manico alla tecnologia e sarà davvero difficile sapere come potrà andare a finire, ma tutti ci dicono che andrà a finire malissimo. Bene, vi ringrazio per avermi lasciato questo spazio e saluto e lascio la parola a Simone. Ciao ciao! Bene, allora io mi dilungo poco perché in realtà ho visto che ho parlato tanto prima e ho un po', diciamo, rubato tempo agli altri interventi, e devo dire che io mi trovo d'accordo con quello che dice Davide, però purtroppo è veramente la mia posizione, anche perché secondo me un'applicazione di intelligenza artificiale, un software di intelligenza artificiale non avrà mai la quantità di informazioni necessarie per poter ricevere un nostro demando nei suoi confronti a magari risolvere un problema o passare determinate cose dicendo questo è inutile che lo fai perché tanto vai avanti e quel resto ci penso io. E poi c'è anche un discorso esperienziale che chiaramente un'intelligenza artificiale che non è intelligenza artificiale non ha, però questo è un po' appunto un punto di vista, ragazzi, cioè, poi è ovvio che ognuno di noi ha il proprio punto di vista e il proprio entusiasmo. Io spero che non si senta troppo il casino, ma hanno deciso che alle 7:40 hanno iniziato il lavoro qui al cantiere, perché sapete che stanno facendo la 110 qui sul palazzo mio, che da una parte grazie a Dio. E invece domanda radicale per una persona che viene un po' considerato un po' il vate, diciamo la resistenza, diciamo, nell'ambito del mondo tech e del mondo dello sviluppo e dell'informatica e del digitale in generale, che è Walter Vannini di Data Nightmare, al quale ovviamente abbiamo domandato Davide Gatti prima, Survival Hacking, anche lui cercatelo su YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi, fate like e condividete tutti quanti i video, perché giustamente sta facendo un grandissimo lavoro in questo momento, veramente è esplosa la sua fama. Invece dicevo, Walter Vannini, che anche ha comunque un punto di riferimento importante nell'ambito del podcast tecnologico, essendo una sua posizione radicale anche la domanda, perché quello che gli ho domandato fondamentalmente, poi cerca, ovviamente la domanda è, diciamo, provocatoria e radicale proprio perché è dedicata a lui, perché secondo lui le AI, il deep learning e affini in realtà sono fuffa, o meglio un'aberrazione commerciale del mondo, insomma, del marketing, riguardo ovviamente a quello che vogliono farci credere o vogliono spacciare l'intelligenza artificiale. Ecco, sentiamo il suo pensiero. Simone, se posso permettermi di citare un grande, la tua domanda è mal posta. In realtà tu volevi chiedermi: maestro, che ore sono? Per dire che con una domanda così ci riempie un trattato di 1000 pagine, non qualche minuto di audio. Scherzi a parte, partiamo dai fondamentali. Dell'intelligenza artificiale non mi piace la nomenclatura e mi piace ancora meno l'ideologia che ci sta dietro. Ci vendono dei chatbot come intelligenza artificiale, ma non c'è nessuna intelligenza. Non ce n'è dietro la generazione di testo verosimile e non ce n'è dietro la generazione di immagini da una loro descrizione testuale. Sì, sono comportamenti che in un essere umano sarebbero considerati intelligenti, ma il punto è che dietro non c'è un essere umano, non c'è una cognizione, non c'è una coscienza. E quindi non c'è intelligenza, non in una qualsiasi forma con la quale potremmo relazionarci. Anche una serratura ha una sua intelligenza. Ciò nonostante, non parliamo di intelligenza artificiale. Lo stesso dicasi per il deep learning, non c'è alcun apprendimento, c'è soltanto un addestramento di tipo statistico. Il fatto che si continui a insistere sull'antropomorfizzazione di queste tecnologie, e ancor di più che si insista a indicarle come potenzialmente sostitutive di attività umane, è una scelta esplicita e ideologica. Quale ideologia? Quella della religione della tecnologia, del transumanesimo, del lungotermismo, tutto il peggior ciarpame nazistoide prodotto negli ultimi due secoli. Purtroppo questo letame culturale negli ultimi anni ha anche decisamente virato verso il culto religioso, il che significa che non abbiamo ancora visto il peggio. Occorre dire che la discussione intelligenza o no ci porta poco lontano. Certo, queste macchine, nelle loro funzionalità specifiche, hanno capacità superiori a una buona parte degli esseri umani. Mi permetto di dire, e sti cazzi? Un computer può fare calcoli o dimostrare teoremi che non arrivo nemmeno a comprendere. Può battermi a scacchi 100 volte su 100. Ma questo non rende il computer minimamente umano, né, e secondo me questa è la parte importante, rende me minimamente meno umano. Nessuno mette in dubbio che una banale calcolatrice tascabile, un sistema di dimostrazione di teoremi, un programma per il gioco degli scacchi superino in performance il 100% degli esseri umani. Nonostante questo, dire che una calcolatrice o un sistema di dimostrazione sono dei grandi matematici è ridicolo. E qualsiasi cosa faccia il programma degli scacchi in una partita non sta nella definizione di giocare. Quindi da questa parte c'è poco da discutere, ci si trova subito umanisti contro macchinisti. E francamente è una discussione noiosa, perché o si accetta il dogma macchinista per il quale gli esseri umani sono soltanto macchine poco efficienti e quindi degne di sostituzione, oppure non c'è davvero un terreno comune. Ma questa discussione serve solo a buttare tutto in caciara. Chiediamoci un'altra cosa. Quando la proprietà di una miniera acquista una talpa meccanica, quando un'industria manufatturiera mette in linea dei robot, perché lo fanno? Gli aedi del padrone ci scrivono che le condizioni di lavoro migliorano, ma quello è solo un gradevole effetto collaterale. Perché nei fatti le macchine sono lì perché migliorano il rapporto fra costi e entrate, e il miglioramento delle condizioni di lavoro va soltanto a quelli che il lavoro non lo perdono. E che peraltro di solito possono anche accettare riduzioni di salario per poter competere con le macchine. Quindi la proprietà non solo aumenta i guadagni, ma taglia anche le gambe a qualsiasi rivendicazione da parte di chi di lavoro ci vive. Basta discussioni su orari, salari, condizioni di lavoro, il senso stesso del lavoro, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, lo Stato è chiamato a farsi carico della riqualificazione dei disoccupati, producendo deficit che verrà usato come dimostrazione del fatto che lo Stato è inefficiente e che l'impresa privata non dovrebbe avere vincoli. Un paradiso liberista. E adesso chiediamoci, quando i signori della tecnologia ci dicono che adesso le loro intelligenze artificiali potranno sostituire i giornalisti, gli insegnanti, i giudici, che cosa cercano di ottenere? Innanzitutto di dettare la direzione in cui la società deve evolvere, una direzione che casualmente li vedrà sempre in ruoli chiave, e in secondo luogo di sostituire o marginalizzare tutto e tutti quelli che vedono come costi inutili o come ostacoli lungo il tragitto. I GAFAM stanno facendo quello che hanno sempre fatto i capitalisti dalla rivoluzione industriale in poi, garantirsi il predominio economico modificando la società a loro esclusivo beneficio e allo stesso tempo togliere dal tavolo le esigenze di chi vive del proprio lavoro. La mitologia dell'intelligenza artificiale generale è soltanto lo slogan contemporaneo, niente di più. Grazie. Vuoi essere sempre informato su quello che succede in Runtime Radio? Puoi seguire gli eventi della tua radio preferita tramite Telegram, cercando il canale Runtime Radio, oppure interagire con noi durante le dirette su telegram.me/diretterontime. Se sei ancora più social di così, allora ti consigliamo di seguirci anche su Instagram cercando Runtime Radio. Ci sono molti modi per seguire Runtime Radio, la web radio geek. Cercaci, ci troverai sempre! Grazie cara, grazie, sempre molto gentile, presente, affidabile, vabbè, e chiaramente è inutile commentare poi la posizione di Walter, ma lo dice il suo podcast stesso, è una posizione politica e culturale, non è soltanto una posizione concettuale o tecnologica. E infatti ovviamente Data Nightmare come slogan c'ha l'algoritmico e politico, perché comunque poi dopo non è il problema di sviluppare determinate situazioni dal punto di vista informatico, ma quanto poi queste situazioni verranno inserite all'interno di dei contesti legali, no? Quindi dove la politica poi ovviamente tenderà a spingere perché è foraggiata da X o da Y e via dicendo. E voglio concludere invece questa puntata, quindi ribadisco, poi queste sono posizioni, cioè io penso che il bello di questo episodio sia proprio cercare di prendere l'insieme e farsi una propria idea, a prescindere dal fatto che io ho magari la mia idea anche se è molto vaga. Però concludo con Francesco Di Muro, psicologo, perché la mia domanda secondo me è la cosa sulla quale poi alla fine si batte di meno, perché chiaramente il marketing dell'intelligenza artificiale vuole dirci altro, ma in realtà secondo me la cosa importante e interessante è che questo tipo di applicazioni possono essere utili dal punto di vista sanitario o dal punto di vista anche psicanalitico o dal punto di vista proprio dell'assistenza nella vita di tutti i giorni, magari per persone normali o per persone con disabilità, con problemi, con difficoltà e via dicendo. Quindi cioè, in che modo poi in realtà queste tecnologie possono o sono già integrate all'interno di questo contesto? Quindi vediamo poi anche l'aspetto più positivo e immediato dell'impatto che può avere all'interno della società, quindi a livello proprio sociale, questo tipo di discorso, oltre che da un punto di vista professionale, che pare ovviamente essere l'unica funzione, l'unico scopo per la quale i marchettari concepiscono, i marchettari, cioè quelli che ce la vendono, cioè io non sto facendo riferimento a nessuno nello specifico, ma parlo proprio di chi vuole vendere questo tipo di tecnologia, la punta ovviamente per coloro che possono poi rifornire denaro, no? Ovviamente, perché insomma c'è un lavoro dietro e quindi ovviamente niente è gratis o è pensato per essere a favore dell'umanità, purtroppo, no? Però appunto ci sono magari delle soluzioni, delle situazioni o dei contesti dove l'intelligenza artificiale può essere veramente d'aiuto alle persone, e cerchiamo di sentire un po' la risposta di Francesco Di Muro, psicologo. Seguitelo come Lobby Frontali su Instagram. Parto subito dicendo una cosa forse ovvia, che magari già è stata ripetuta più volte negli altri contributi prima del mio, ossia che gli algoritmi di machine learning, deep learning o come si chiamano, le IA, semplifichiamoci la vita, non sono intelligenze eccetera eccetera, però chiamiamole IA, al di là di quanto potranno o possono essere sofisticate, sono e rimangono uno strumento. Quindi qualcosa che serve a una persona, a delle persone, per raggiungere uno scopo più agevolmente rispetto a farlo a mani nude, e quindi devono avere una ragion d'essere, altrimenti se le devi mettere giusto perché fa figo eccetera eccetera, è meglio se non le contempli proprio e ti fai i cacchi tuoi e continui a fare quello che stai facendo come sei abituato. Se la loro applicazione serve per aggiungere qualcosa in più, ben venga, a patto col diktat che vengano rispettati rigorosi standard etici di privacy e di ragion d'uso. Se si rispettano queste cose, per me è ragionevole usare uno strumento, l'IA, per fare qualcosa in più in ambiti delicati come quello sanitario o più specifico della salute mentale. In questi ambiti, come immagino credo un pochino tutti gli ambiti in cui vengono usati questi algoritmi, il contributo principale è quello di compiere delle decisioni ragionevolmente esatte e rapide sulla base di una mole di dati che il cervello umano non riuscirebbe mai a maneggiare in quel lasso di tempo breve, ma forse non riuscirebbe mai comunque. Ovviamente mi riferisco a decisioni su un singolo, a volte atomico aspetto, come per esempio riuscire a capire se un determinato tumore può sviluppare metastasi, ma un determinato tumore di una determinata specie di tumore in di una determinata dimensione in una determinata parte di un organo, basta che ti sposti di un millimetro, cambia qualcosa e devi basare quella decisione su tutti altri dati e diventa un casino. Quindi c'è sempre la necessità di affiancare questa enorme capacità computazionale alla flessibilità di una persona in carne e ossa, perché comunque il final cut, diciamo, la decisione finale spetta sempre a un professionista, che comunque vanno supervisionate, anche perché magari la base dati è basata su dei dati che hanno dei bias, hanno delle distorsioni tanto elevate, quindi comunque, come dicevo prima, deve essere concepito sempre come uno strumento come tanti altri che si possono usare per quella professione sanitaria. Discorso non dissimile se vogliamo parlare più precisamente di salute mentale, perché comunque l'intelligenza artificiale eccetera eccetera possono essere usate per diagnosticare in anticipo per esempio la comparsa dell'Alzheimer dall'eloquio, oppure se una determinata, oppure sempre dalle, oppure anche come scrive una persona, se tendenzialmente svilupperà, che ne so, depressione o altro eccetera eccetera. Il problema è qua, come ho detto prima, è sempre che comunque devi avere una base dati molto solida, però sono dei dati molto sensibili, molto delicati, e c'è bisogno di supervisione da questo punto di vista. Pure i chatbot in realtà sono interessanti, è vero che il primo chatbot Eliza è stato sviluppato proprio per perculare, diciamo, un pochino l'intelligenza artificiale e il loro uso da questo punto di vista, però c'hanno delle applicazioni interessanti per quanto riguarda il supporto eccetera eccetera, però con la consapevolezza che quello è un chatbot e che può arrivare fino a un certo livello e che comunque hai sempre bisogno di un professionista che ti sostenga. Per quanto riguarda invece l'impiego di questi strumenti, ripeto, strumenti per l'accessibilità e l'inclusività di persone con disabilità fisica o cognitiva, mentale, basta pensare all'impiego che si può fare dei maledetti smart assistant come Alexa eccetera eccetera, combinati alla domotica, quindi accendi, spegni luci eccetera eccetera, apri porte, chiudi porte, fai queste cose qua. O anche e soprattutto per favorire, per facilitare in qualche modo la comunicazione di persone magari che, data la loro condizione, hanno difficoltà comunicative. Ad esempio persone che comunicano solo tramite vocalizzi, esistono delle applicazioni IA che riescono a tradurre questi vocalizzi, a farli diventare, a far capire qual è la richiesta con ragionevole accuratezza. Oppure anche per la mobilità, esistono delle carrozzine che riescono in qualche modo con una telecamerina, riescono a leggere l'espressione facciale di chi ci si siede e a dedurre dove vuole spostarsi. Pure questa è una cosa interessante. Ripeto, di cose interessanti se ne possono fare, però devono essere usate con un certo raziocinio, rispettando tutte le cose, morale eccetera eccetera, privacy eccetera eccetera. E niente, rutti sia normali che al contrario, da adesso. Beh, quando sei un professionista dentro è così, cioè non c'è niente da fare. Comunque devo dire che questo, se voi sapete, che è un tema che è molto al quale sono molto sensibile, cioè io appartengo a quelle persone che secondo me vogliono dare proprio attenzione a questi tipo di aspetti. E questo lo facevo anche sul discorso della realtà aumentata, ma ci torneremo anche su questo tema. Bene ragazzi, io ringrazio Carlo Sant'Agostino, anche se poi l'audio non me l'ha mandato, Alex Raccuglia, Roberto Marin, Davide Gatti, Walter Vannini e ovviamente Francesco Lobby Frontali. Hanno tutti affrontato il tema dal loro punto di vista, dal punto di vista creativo in senso positivo, dal punto di vista professionale in senso anche di accelerazione del processo creativo dell'architetto, con un po' di scetticismo riguardo alla delegazione delle responsabilità dal punto di vista di Davide Gatti, al completo rifiuto, fiamme e fuoco, da un certo punto di vista di Walter Vannini, ma dal suo punto di vista è coerente comunque il discorso e alcune cose le condivido in maniera abbastanza profonda, e ovviamente Francesco che ci spiega come poi queste cose possono essere veramente di supporto se sviluppate con una certa coerenza e con informazioni solide, quindi con una raccolta, un learning importante dal punto di vista del software. Detto questo, io spero di aver fatto una cosa utile ossia una puntata dove è tutto condensato. Ognuno di voi magari può raccogliere il meglio di quelli che sono i pensieri di tutta Runtime e farsi poi magari di conseguenza una propria idea. Secondo me hanno ragione tutti, ma non per fare il democristiano, sapete che non lo sono, non lo sarò e non lo sarò mai, cioè non lo sono, non lo sono mai stato e non lo sarò mai. Ma proprio perché secondo me c'è una parte di verità in ogni contesto e in ogni situazione, anche nel positivismo di guardare queste cose con un certo atteggiamento propositivo, così come ovviamente per le persone che invece hanno una visione un po' più negativa rispetto a questo tipo di situazioni, perché in questo contesto, che come abbiamo detto è ancora molto grigio, non può esistere e non deve esistere ovviamente un pensiero unico collettivo come su tantissime altre cose. Io vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata, vi ricordo di sostenere Runtime Radio andando su runtimeradio.it, cliccando su Anche Io, sostenere economicamente con una donazione una tantum su PayPal o supportandola tramite Patreon è importante, perché purtroppo, ribadisco, molte cose nel mondo del podcasting stanno cambiando, molti prezzi di servizio stanno cambiando, il podcast indipendente è stato tradito in maniera radicale, profonda, in una maniera che non ci saremmo mai aspettati, anzi diciamo che le piattaforme che fino adesso hanno campato sul podcast indipendente oggi uccidono l'indipendenza del podcast, e questa è una cosa che va ricordata, sulla quale torneremo e faremo una nostra battaglia coerente e soprattutto forte, perché questo è giusto, che dopo 10 anni noi ci si permetta anche di esprimere il nostro dissenso in maniera forte e decisa, perché insomma ne abbiamo il diritto. Detto questo, appunto, vi ricordo che domani mattina non siamo in live io e Michela, ma lo saremo domenica mattina, e vi auguro una buona giornata a tutti e vi lascio con Prince. Ciao a tutti.